inizialmente ho seminato 6 piante di mais OGM dichiaratamente OGM, poi adesso ho un terreno sequestrato di 4 ettari dove ufficialmente non è ancora stato dichiarato OGM, però è un mais che è iscritto nella lista varietà della Comunità Europea, quindi perfettamente legale. Ecco, abbiamo fatto questa azione, io e il Movimento Libertario, soprattutto perché è un'azione legale nella legalità, come lei ha ricordato giustamente, c'è una direttiva europea in Italia che non è mai stata attuata, nonostante sia stata recepita, ma non è mai stata attuata dallo Stato italiano, il quale è contro l'articolo 22 di questa direttiva che dichiara la libera circolazione delle possibilità di seminare OGM, ha fatto di tutto per limitare, impedire e scoraggiare chi volesse seminare OGM, tant'è che i miei colleghi di Futuragra, e anch'io sono di Futuragra, tant'è che questi continuamente devono andare presso i tribunali, presso il Consiglio di Stato, cioè questa è la situazione di disparità con cui ci troviamo a combattere. Chi è nell'illegalità, dal nostro punto di vista, in questo momento, è lo Stato italiano che impedisce di fatto la possibilità di seminare mais OGM.